Raindrops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my... Vissi d'arte, vissi, rubrica di donne, vita e arte. La puntata di oggi si intitola Una missione lunga una vita, Palma Bucarelli. Colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Care amiche e amici, benvenuti a Vissi d'arte, Vissi. A quasi 20 anni dalla morte, studi e mostre non smettono di evidenziare la particolarità della presenza di Palma Bucarelli nel panorama storico e culturale italiano. Nata nel 1910 a Roma da una famiglia altoborghese, padre di origini calabresi e madre messinese, Bucarelli vi trova un insieme di condizioni, agiatezza economica, cultura, orizzonti esistenziali privilegiate. Gli anni della sua formazione intellettuale si spendono in un contesto storico e politico caratterizzato dall'ascesa e dal consolidamento del regime fascista. Palma si laurea in storia dell'arte con Pietro Toesca nel 1932, grazie ad una tesi dedicata a Francesco Salviati, e accede alla scuola di specializzazione. Subito dopo, nel 1933, vince il concorso per la carriera direttiva degli storici dell'arte, entrando così nella pubblica amministrazione. Ma qual è lo scenario in cui si muove la nostra giovanissima studiosa? L'epoca fascista è caratterizzata da una gigantesca opera di riordino, regolamentazione e controllo della struttura sociale italiana, in cui il discorso sui ruoli sessuali, rigidamente disciplinati e da disciplinare in una struttura eterosessuale fondata sulla famiglia e sulla prole, prevede una netta ripartizione degli ambiti d'azione dei sessi, pubblico per l'uomo, privato per la donna. Il fascismo della prima ora, che coniugando in un amalgama rozzo ma affascinante stanze libertarie, velleità avanguardiste, elementi socialisti e rivoluzionari, con una capacità dirompente di suggerire il nuovo e il temerario, aveva fatto presa anche su molte donne che videro in esso la possibilità di rompere i soffocanti legami della tradizione, impone ora un ritorno all'ordine di genere. Note sono ormai le ambiguità ulteriori di questo modello di donna fascista. Privata del voto, della possibilità di lavorare, della possibilità di studiare, della proprietà del corpo e del destino biologico, rinchiusa nell'ambito domestico, la donna fascista doveva al contempo coltivare un ideale civile in cui ogni gesto casalingo aveva un significato politico e richiedeva l'adesione a pratiche politiche di massa, che se necessario ed utile implicavano anche l'uscita della donna da casa e persino il suo rientro sul mercato del lavoro. Un'immagine, un programma e una condizione quantomeno contraddittoria, insomma, se non addirittura conflittuali, la cui irriducibile complessità lasciava tuttavia spazi di autorealizzazione, specie in quelle giovani donne uscenti da classi sociali medio-alte. E così la giovane ragazza bene, Palma, che studia con ottimi risultati, schivando le restrizioni allo studio via via più ferree che il regime impone alle italiane, trova un lavoro prestigioso e si lancia anche nella pratica dello sport. Automobilista, mazzone, sciatrice provetta, abile nuotatrice, Bucarelli incarna nella mente e nel corpo un'immagine di donna emancipata e fuori dagli schemi. Scrisse: «Fin dalla mia adolescenza le vie segnate suscitavano immediatamente la mia ribellione. Tanto più quella della donna, obbligatoriamente solo moglie e madre. Mi parevano troppo facili e troppo comuni. Molte delle mie azioni in seguito sono state in gran parte dovute a questo rifiuto. Andare controcorrente è più difficile, naturalmente, e io non ho avuto la vita facile. Forse ho preteso molto anche dagli altri, ma prima di tutto da me stessa, e miravo ad un perfezionamento che sapevo poter avvenire solo superando molte difficoltà, sia interne sia esterne». Where do you go when you leave me on my own? Nella vita privata, Bucarelli si distingue, sottraendosi alle possibili pressioni sociali nella concentrazione sul lavoro e nella coltivazione di flirt e relazioni amorose di lunga data, spesso con uomini sposati, forse proprio per evitare il pericolo di un impegno matrimoniale dalle conseguenze notoriamente limitanti per le donne. Lo stato di nubilato, ma non certo di solitudine, che scelse Bucarelli fu dovuto alla tranquilla consapevolezza dei limiti usualmente imposti alla vita femminile, limiti che ella mal sopportava, persino all'interno di una famiglia di idee relativamente liberali quali la sua. Basti leggere ad esempio dei problemi sollevati dal suo bisogno di indipendenza ed autonomia prima di tutto fisica e abitativa. I problemi sono sempre gli stessi. La casa e la famiglia mi danno sempre più fastidio. I miei libri e le mie robe in eterno disordine per mancanza di spazio, con un senso di provvisorio che dura da anni e per cui non trovo soluzione. Mi rendono nervosa e mi tolgono ogni entusiasmo di vivere e di lavorare. L'idea che io mi prenda una casa sola per me qui a Roma sarebbe un gravissimo colpo per i miei, con le idee e i principi sociali e morali che hanno loro e che del resto hanno più o meno tutti i genitori. Ovviamente, anche il campo lavorativo specifico in cui si muove, quello che oggi chiameremmo dei beni culturali, presenta non poche difficoltà per le donne. In uno Stato in cui il duce tuona in un discorso ufficiale del 1927 «il sesso femminile porta nelle cose serie il segno incorreggibile della sua frivolezza», Palma trova pochi riscontri alle sue scelte intorno a sé. Le studiose d'arte presenti in Italia sono per lo più straniere, inglesi e tedesche, e di certo non incidono in un campo culturale sempre più caratterizzato da nazionalismo e xenofobia. Le donne che in Italia studiano storia dell'arte, essendo la facoltà di lettere una delle prime ad aprirsi alle studenti nel 1872, sono per lo più destinate all'insegnamento nelle scuole femminili, più raramente alla ricerca. Palma Bucarelli comunque non si scoraggia, come non farà mai nella vita. La sua ottima preparazione l'accompagna in una veloce carriera, cui la notevole quanto peculiare bellezza rischia a volte di causare problemi. Corteggiatissima, mai dimessa né nell'agire né nel vestire, si muove con una sicurezza che affascina e, vedremo, irrita moltissimo, e che ella stessa ricordava e così commentava. Nel mio campo penso di essere stata un po' una pioniera, nonostante che col mio aspetto fosse difficile farsi prendere sul serio. La mia bellezza in un certo senso mi ha ostacolata. Dovevo mostrarmi sempre più dura di quel che ero in realtà. Questo non mi giovava perché finiva che mettevo soggezione. Nel 1939 Palma Bucarelli entra come ispettore aggiunta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Nel 1941 ne diventa soprintendente. Durante la guerra e sul finire di essa, si segnalerà per essere tra quegli eroici funzionari che, rischiando anche la vita, lottarono per sottrarre il patrimonio culturale italiano dalle grinfie avide dei nazisti in vena di rastrellamenti d'opere d'arte. In ogni momento, la sua energia inesauribile le permette di lottare contro le difficoltà burocratiche, contro le ristrettezze mentali e culturali dell'amministrazione, specie in relazione alle donne. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Don't get the money to take me back to Trinidad. Fine calypso woman, she cooked me shrimp and rye. Calypso woman, she cooked me shrimp and rice. These Yankee hot dogs don't treat me stomach very nice. In Trinidad, $1 buy papaya juice, banana pie, 6 coconut, 1 female goat, and plenty fish to fill the boat with bushel bread. 1 barrel wine, and all the time she comes to dine. But here is bad, $1 buy cup of coffee. She sick from necktie, me feet, she hurt from shoes. Me pocket full of empty, I got calypso blues. These Yankee girls give me a big scare. Is black the root, is blondie hair, her eyelash falls, her face is paint, and pads are where the girl she ain't. She jitterbug once, she shoot once. I even think her name is false, but Calypso girl is good a lot. It's what you see, it's what she got. It's what you see, it's what she got. It's what you see, it's what she got. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Don't get the money to take me back to Trinidad. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Proprio in questo giro di anni a cavallo della guerra, infatti, il problema della partecipazione femminile alla vita politica e sociale si impone in termini nuovi d'urgenza. Come già all'epoca della Prima Guerra Mondiale, le donne vengono chiamate a rimpiazzare gli spazi lavorativi ed intellettuali lasciati vuoti dagli uomini al fronte e ad assolvere alle funzioni nuove di una società in rapida evoluzione sociale e materiale. Ma a differenza della Grande Guerra, i mutamenti imposti dal nuovo conflitto mondiale porteranno cambiamenti irreversibili. Cambiamenti che il secondo dopoguerra, con la conquistata dignità civile e politica delle donne, le necessità della ricostruzione e un più generale clima di speranzosa apertura al nuovo, quello stesso clima che porterà al miracolo economico degli anni 50 e 60, permetteranno la conquista del potere direttivo a molte funzionarie. Per meglio conoscere Palma Bucarelli abbiamo sì moltissimi studi a lei dedicati, tra cui il catalogo della mostra omaggio tributatale dalla sua galleria nel 1910, ma due sono i documenti fondamentali: Cronaca di sei mesi, un diario di guerra da lei curato con Lorenzo Cantatore e a cura dello stesso con Edoardo Sassi, Palma Bucarelli, Immagini di una vita. Spettacolare raccolta di immagini e documenti che permettono di leggere la sua vita pubblica e privata con una completezza molto rara per quel che riguarda la storia delle donne, soprattutto italiane. Il diario in particolare ci presenta l'immagine di una donna spregiudicata, sincera a volte fino a risultare imbarazzante, molto incentrata su di sé e sulla sua missione: la tutela e la promozione dell'arte contemporanea in Italia. L'attività museale di Palma Bucarelli ha dell'incredibile. Nel giro di pochi anni, con apice nei due decenni 50 e 60, porta l'istituzione da lei diretta, e che aveva vivacchiato nei decenni precedenti, ad essere elemento di punta nel processo di modernizzazione culturale italiana. Incredibile la massa di eventi, proposte, idee poste sul tavolo dalla sua attività come soprintendente della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Precedendo di poco un'altra grande soprintendente, Paola della Pergola, alla Galleria Borghese, è lei che impone all'attenzione dei colleghi la necessità di impostare una didattica museale rivolta a vari livelli della comunicazione e formazione, dalle scuole ai semplici fruitori occasionali, cosa di cui i musei italiani, spesso pensati come semplici contenitori di opere, erano pressoché privi all'epoca. Ecco dunque nascere le mostre didattiche, i laboratori interni, i cicli di conferenze e concerti, ecco rinascere la grande biblioteca. Soprattutto è lei che decide di aprire l'orizzonte culturale italiano istituzionale al moderno, con l'utilizzo strategico di una serie di mostre evento, come Arte astratta e concreta nel 1951, Picasso nel 1953, Mondrian nel 1956, Pollock nel 1957 e altre ancora. In primo una decisa accelerazione al grande dibattito imperante in Italia all'epoca sul rapporto tra astrattismo e tradizione artistica. Si tratta di mostre che si distinguono non solo per la particolarità del tema, che sia l'artista di grande richiamo come Picasso o quello museologicamente inedito in Italia quale Pollock o Mondrian, ma che si segnalano per l'impegno profuso nella preparazione di questi eventi, per la loro coerenza rispetto alle finalità dell'istituto e infine per l'impatto conseguito nella ricezione del pubblico, sia degli addetti ai lavori che inteso in senso più ampio, tra i visitatori e sui media. wishes, with no one to confide. Now my heart is sitting in my chest, with no one to confide. What is a bush in the desert? Per dirla col critico Marcello Venturoli in una recensione dell'inverno 1957, le mostre della Galleria Nazionale d'Arte Moderna organizzate da Palma Bucarelli rappresentano un esempio notevole dello sforzo di svecchiamento della cultura figurativa tradizionale, un contributo non indifferente alla polemica avanguardistica contro il quieto vivere di un'arte tutta basata sulla tradizione, sul bel saggio accomodante. Per tornare alle attività istituzionali di Palma Bucarelli, occorre anche ricordare come ella conduca estenuanti per i suoi interlocutori campagne di persuasione per ottenere donazioni e lasciti importanti alla sua galleria. È così che Peggy Guggenheim dona un Pollock e Giorgio Morandi tre sue importanti tele e poi Burri, Manzoni e altri ancora. Inoltre, pur nell'esiguità esiguità estrema dei mezzi economici che le sono concessi, lotta per imporre l'acquisto di opere importanti, da Monet a Van Gogh, contro i pregiudizi e i nazionalismi ancora imperanti nell'amministrazione italiana. Nei decenni del suo governo, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma diventa una macchina museo, produttrice di cultura, attraverso un ciclo perenne di attività museali che trasformano l'antico sacrario dell'arte ottocentesca in un luogo in cui la contemporaneità trova ascolto, spazio, diffusione. Ma l'agire istituzionale e culturale di Palma Bucarelli si attua in modi strettamente peculiari, del tutto inediti, che partono da lei stessa, intesa come essere fisico. All'interno di una struttura sociale che inchioda il genere al corpo, l'uso consapevole del corpo da parte di un soggetto socialmente attivo ed influente diventa un elemento simbolico importantissimo. Ci muoviamo qui in un sorprendente campo in cui il luogo istituzionalmente adibito alla conservazione, alla trasmissione e alla valorizzazione semiotica dell'immagine, il museo, diventa la cornice privilegiata entro la quale viene messa in scena una comunicazione per immagini parallela. A capo di questa istituzione vi è un essere umano, il soprintendente. Tuttavia, il fatto che il soprintendente sia la soprintendente, lungi dal rimanere un dato neutro, porta forse per la prima volta in scena, in questa scena istituzionale specifica che chiamiamo museo, le potenzialità comunicative del genere. Palma Bucarelli, perfettamente conscia dell'aura carismatica che la circonda, fa del suo corpo il fulcro energetico di un luogo che diventa estensione dello stesso. L'assimilazione corpo del soprintendente e corpo del museo si fonda su alcuni elementi molto materiali. Innanzitutto la presenza fisica di Bucarelli, che abita l'appartamento posto all'interno dell'edificio di Valle Giulia, una presenza fisica che si colora di leggenda nei racconti di quanti la videro nei decenni attraversare saloni e stanze con il suo caratteristico passo deciso e la sicurezza di chi si muove in casa propria. Vi leggo un breve ricordo del collezionista Cavellini. Palma Bucarelli emanava un suo fascino particolare. L'accorrere di un cane bassotto nelle sale del museo annunciava puntuale l'arrivo maestoso della padrona di casa. Gli inservienti la riverivano rispettosamente. È da osservarsi anche il prolungamento di tale presenza fisica post mortem, potremmo dire, attraverso l'importantissimo legato di quadri, sculture e gioielli d'autori lasciati alla galleria, tra cui spiccano gli splendidi toemici ritratti della soprintendente, opera di Cecchi, Mazzacurati, Savinio e Turcato. Bucarelli è una donna inedita per l'epoca. È una donna di potere che ama il potere e che sa tenerlo e amministrarlo con ferrea determinazione. Felt something shaking in my good hand. Blood in my veins, blood in your veins. Our blood wants to meet, that's why it's rushing round, pushing itself up into our cheeks. Where's God? I feel her, right here in the clearing. Whispering of something I'm not hearing. I'm listening as hard as I can. Guess I ain't ready yet. Too many, too eager, they won't ever get deeper. Where's faith? Faith was in my class when I was younger. She had pretty eyes full of misery and hunger, but they kept on smiling as if they knew that the horizon could never burn gold without red. Now she was hiding from my teachers, giggling. She'd stolen money's weakness, made him twice the boy he was before he knew what sweetness really meant. He's a man now, distant and attached. And where's faith? Faith's rummaging around for some scraps. Her eyes roll back, she's chasing dragons in her flat. The real dragon shakes her head and stares out through the black into the oncoming dawn. New myths, old places, shell toes, gold laces, hot night, cold spaceship. Truth told, truth wasted, too much, too basic. I don't want it, I can't break it. Everything's for sale, I can't take it. Everything is fake, I can't fake it. Where's patience? Sitting in the basement, waiting. We hold shells to our faces and listen for the waves. They crash on ancient shores, the dog paws just keep aging. The doors of perception are swinging off their hinges, mutated. Angels are banging on their cymbals, pushing out their titties for the big bass. Dimples, sick taste, swallow it. Keep simple, follow it forever if it fills you. Find a thing to live for and do it till it kills you. You need something to believe in. It's a nice evening for immaculate conceiving. Keep breathing. Where's breath? Breath packed her things and left. Too many of her good friends rotten in their flesh. Feasting on the kill, now they're chopping up what's left. Divvy it up and move on. What's wrong? Siete in ascolto della puntata di Vissi d'Arte Vissi, oggi dedicata alla soprintendente storica dell'arte Palma Bucarelli. Il temperamento della soprintendente emerge nettissimo nella corrispondenza e nei carteggi istituzionali, per quanto burocratici. Il suo celebre carattere e la sua allure contribuiscono alla costruzione di una leggenda attentamente pianificata, anche nella fioritura e nella diffusione di aneddoti a volte surreali, ma che contribuiscono a creare il personaggio Bucarelli, mitologico ibrido di donna e galleria. Ma ovviamente l'attrice per eccellenza di questa rappresentazione di un potere incarnato è Bucarelli stessa, la quale costruisce a partire da sé un'attentissima strategia della comunicazione corporea. In questo il suo corpo di donna è strumento per elezione, dalla linea attentamente sorvegliata al trucco e alla capigliatura, dal portamento alla dizione, curata dall'attrice Andreina Pagnani, all'abbigliamento. Palma Bucarelli utilizza il ferreo codice vestimentario caratteristico ancora di buona parte del XX secolo per comunicare autorevolezza e stile, dai tailleur in stile Joan Crawford degli anni 40 ai pantaloni quando in Italia non erano ancora usuali per le donne, specie in ambito formale, e soprattutto agli abiti di alta moda, utilizzati per vernissage, feste e occasioni mondane. Non sembra eccessivo il peso dato a questi elementi della comunicazione corporea, rispetto ai quali, nell'era odierna dell'abbigliamento informale e dei jeans a teatro, occorre riportarci a un'epoca in cui il rispetto delle forme e dei tempi della giornata era espresso dall'abbigliamento in termini molto più rigorosi degli attuali. Inoltre, è stata la Palma Bucarelli stessa a sottolineare l'importanza strategica di questo elemento per la documentazione storica della sua attività di soprintendente, donando gli abiti più belli, usciti dalle migliori sartorie romane, al Museo Boncompagni Ludovisi, una sorta di costola, diciamo così, della sua galleria. D'altra parte, le fotografie di Bucarelli avvolta in questi abiti, trasmesse a giornali e rotocalchi, contribuiranno a creare un'aura di glamour che sconcerta e irrita, ma innegabilmente attrae sulla galleria l'attenzione dei mass media che si prestano immediatamente al gioco, in senso positivo e ovviamente negativo. La presenza, anzi, per usare volutamente un termine beniaminiano, la stanza fisica di Bucarelli, è sottolineata ad ogni recensione o articolo. Celebre rimane in occasione dell'inaugurazione della mostra di Picasso il 5 maggio 1953 l'immagine della soprintendente, raccontata dai giornalisti, ripresa dalle camere dell'epoca, dalle macchine fotografiche, della soprintendente, dicevo, al centro di un'elaborata coreografia diplomatica e mondana, mentre attende in cima alla scalinata della galleria che il presidente della Repubblica Luigi Einaudi ascenda, è il caso di dire, fino a lei, parata in un elegantissimo tailleur nero illuminato da due grandi rose rosse sul seno. Articoli di giornale, rotocalchi e più tardi televisione sono dunque chiamati a partecipare alla costruzione di un'immagine che viene curata in ogni particolare. È importante comparire, non per presenzialismo, ma perché è importante occupare la scena pubblica continuamente con riferimenti e rimandi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e alle sue attività. Articoli e interviste servono a sottolineare in modo quasi ossessivo l'attività di Bucarelli all'interno della galleria e della galleria all'interno del panorama culturale italiano. Abiti, coreografie, immagini. Mi sia permessa l'ironia di un accostamento all'iconografia elisabettiana, esempio per eccellenza della creazione di un'iconografia del potere femminile che assimili corpo ed istituzione, un'associazione che possiamo spingere fino a comparare la verginità presunta di Elisabetta I Tudor e il nubilato d'immagine rigorosamente coltivato da Bucarelli, nonostante le celebri chiacchieratissime relazioni con il chirurgo Cesare Furgoni e con Giulio Carlo Argan, suo collega d'arte, e nonostante il matrimonio tardivo con il giornalista e scrittore Paolo Monet. Questa strategia comunicativa presenta comunque punti deboli di non poco conto. Un'attenta lettura della stampa quotidiana e periodica evidenzia non a caso un'evidente confusione tra la Bucarelli pubblica e quella privata, tra la donna, la soprintendente e l'istituzione, perdendo di vista a volte l'oggetto del contendere, cioè le attività della galleria. Ed è forse altrettanto significativo il fatto che ancora ai nostri giorni l'aspetto più strettamente intellettuale del suo lavoro, la sua produzione critica espressa in saggi, articoli e convegni e interventi a convegni, sia a volte misconosciuto. Edna Milianino drop dead suit. Dutch pink on a downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest. And a dance and I'm all half-fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. She flipped a book about Ella Morgan's head. And I'm stepping on the devil's tail. Across the stripes of a full moon's head. The bars of a Cuban jail, black lip fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. The carnival is what she said. $100 makes it dark inside. A million in a drop dead suit. Dutch pink in a downtown train. $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Fly away home, the house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, the house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, the house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, the house is on fire, children are alone. Palma Bucarelli dà fastidio anche o forse soprattutto perché è una donna. Dietro ogni recensione meno che benevola, dietro ogni attacco o dubbio, quello che emerge è una vena di furibonda misoginia che Palma, a fine carriera, sa ormai gestire con tranquilla certezza. Certo bisogna lavorare più duramente, bisogna provvedersi di una cultura a costo del sacrificio di tante altre cose piacevoli, avere volontà e determinazioni precise, una disciplina spietata, lottare contro ogni difficoltà di genere. Si tratta di modificare un tipo di società creata dagli uomini, i quali non saranno costretti a correggerla se non dalla forza dell'evidenza. Queste le sue parole. Molti articoli a lei dedicati grondano sessismo e pregiudizio fino al parossismo. Leggo. È giusto che un funzionario come la Bucarelli continui a fare il suo comodo in un museo di Stato, architettando partigiane documentazioni delle esperienze estetiche di questo secolo? È giusto che le sorti dell'arte italiana siano ancora nelle mani di una donna, abituata forse più a frequentare cocktail e serate mondane? Ella, continua a citare, regna alla maniera dittatoriale. È di volta in volta una presentatrice o una piccola incontrollata dittatrice, una ineffabile dittatoruccia e una donnetta in orbace. E le mostre in gallerie sono il risultato dello snobismo di una funzionaretta in cerca di estrosità. Tutto ciò è un incidente del mestiere per lei, che procede dritta sulla sua strada, incurante degli attacchi che le giungono perché la sua pionieristica attività di promozione dell'arte astratta irrita e sconcerta, fino a provocare interrogazioni parlamentari, inchieste ministeriali, articoli ferocissimi. Negli anni della sua direzione la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma è un faro.